Vamos, vamos a la playa, playa. Wanna party till the morning light. Being together, this will take me higher. And the disco starts tonight. Oh baby, dum, di dum, di dum, di da di da di dum, di dum, di dum, di da di da di dum, di dum, di dum, di da di da di dum, di dum, di dum. Disco star.